Sta pensando l'antenna adesso nel coso, nel terrazzo. La Game Master, fa poco ti chiama. Ma la Game Master originale? No, quella fatta in automatico, già lo sai. Ti ha fatto un po' male, Bobo, ti ha fatto un cupo. Quella fatta simile all'originale, già lo sai, quella che faceva Luca. Andare. Lasciamo il tempo di piazzarla perché in questo... Con quest'acqua io, la verità, non ci avrei pensato un cazzo, a parte la luce mi avrei fatto. Ma vuoi provare? Se lo vuoi fare, Avvero me, avvero. Tu pensi anche la mia la devo buttare giù. Perché? Perché quando piove mi da stazionarie, qua. C'ho carta 1.5, 1.7 adesso, canale 10. Wow. Ascolta, quando la scendi giù, ma cos'è, non è la Game Master, la mantova? Non mi sbaglio. Io ho sempre la mantova. Ecco, allora fai una cosa, quando la scendi giù, ti pulisci quel cavetto che è nero, che parte dalla base e va alla bobina, a quella grande. Quel cavetto ossidato, hai capito? Quindi lo pulisci bene con CVC o qualcosa del genere, gli pulisci bene il toro in modo che faccia massa, perché quello in pratica è il cortocircuito dell'antenna, hai capito? Tu vedrai che l'antenna torna a nuovo normale. Ehi vabbè, diciamo che non c'è manco il bocchettone, quello che copre il PL. È là sotto l'acqua quello. Sì, vabbè, glielo cambierai il PL. Non è problema. Guarda che condizioni è. Il bocchettone che c'è lanciato alla base, se si è ossidato glielo pulisci bene, se no glielo cambi. Tieni presente che se dovessi staccargli il bocchettone è un casino a me. Perché ti rimane il PL in mano. Capito? Quindi dovete fargli il cavetto nuovo dall'interno e passarlo alla bobina, dove c'è il buco della bobina, quella grande. Ma uscire? Sì, è così purtroppo. Sono sepultito. No, sono fottito. Beh sì, perché quando è successo 1.7, se ti metti a pompare sali a 2.5, come ha fatto a me. Mi ha fatto a me una volta quel difetto. Quindi io tu. Sono già il difetto che c'ha l'antenna. Ah, te la mantova tuba è ancora peggio, perché quella devi smontarla tutta quanta, devi smontarla. Invece la mantova 5 la cosa è totalmente differente. Capito? Adesso vediamo, al prossimo anno però, quest'anno non è facile. Al prossimo anno puoi fare, mica la devi fare adesso, ma sei matto, cazzo, come tengo le bagnate, se sarei soppatato sarei che ci scendi, è chiaro di sotto. Sì, ma infatti non è facile adesso. No, fallo l'estate prossima, te lo fai, scendi la tonna bene in terra, piano piano, te la pulisci, ti pulisci la base, l'attacco dei radiali, quello che è, eccetera eccetera, dopodiché una volta che è pulita bene, trac, prendi e ce la rimetti nuovo sotto. Permesso? Permessico. È permesso? Avanti, segnale 9, sei qua. Buonasera, buonasera. Ciao Luca Rie. Ciao amico, ti arrivo da mamma, ora un po', sono al monte. Se per sì ti arrivo. Ti sto dicendo che c'ho lo snitter a varo. C'è qualche problema. No, quanto ti arrivo? 1, 2, 3, prova. Ui, è più o meno lo stesso segnale, però la radio è più forte. comunque il Severino è il... qual era il pompo? Il V14? Quando ti arrivo pompo a casa tua? Se non mi ricordo era il V14, se non mi ricordo male. Vabbè, comunque quello dell'ospite te la cogli subito il trimmer. È quella che c'è vicino alla a quella piazza rettangolare che c'è messa in verticale, ce l'è presente, c'è un trimmer lì. E quello è come si chiama, poi c'è quello per la regolazione dell'ospite in trasmissione e la ricezione. Capito, sono tutti più vicino, so. Comunque sei quasi 9, salve, di segnale adesso. E Luca quando ti arriva? E Luca arriva 9.25 qua. C'è la differenza. Ascolta un attimo, sai che guardiamo a vedere come sono le stazionarie? Comunque la radio è buona, La radio è 5. Quindi picchi positivi, quindi l'antenna dovrebbe essere giusta in teoria. Allora, cosa devo fare? Devo andare a fondo scala qua, il tasto rosso devo schiacciare prima, Antone. Sì, il tasto rosso, dopodiché giri la manopola, la mandi a fondo scala e poi SWR. Aspetta un attimo, allora. Aspetta. No, aspetta un attimo, allora io... Come faccio a mandare a fondo scala ora? Cosa devo schiacciare per primo? Schiaccia, ti ho detto, il pulsante rosso, perché vai SWR? Allora, adesso io non ho toccato niente ancora, mi sta segnando 1.4. 10 watt, no, 1 watt, non è detto questa cosa, si sta aperto. Io non capisco niente qua, aspetta. Guarda che c'è per 10, per 100 e per 1000, hai capito? Sono tre pulsanti, quelli bianchi. Aspetta un attimino, allora schiaccio il rosso. Andiamo a fondo scala. No, aspetta. Hola. Allora, io per mandare a fondo scala, che tasto devo schiacciare prima per regolare a fondo scala? Che rosso devi schiacciare? E quello è per i 50 ohm. Dopodiché come cazzo si chiama? Non me la metto. Il primo mi sembra che era il primo bianco, poi tocchi la manopola, non mi ricordo adesso. Capito bianco, mica i wifi di alimentazione io non li ho collegati. Ora, allora adesso avanti mi sta dando, beh. Watt mi saranno 10-12 watt mi saranno, però a livello di stazionari non mi funziona, cazzo. Quanto ti segna? Vabbè, i watt ce li hai, quindi sono 14, giusto? Tre 13-14 watt a portata e butta. Ok, allora va bene, fate parlare. Ma voglio vedere le stazionarie, eh. Hola, hola. Ascolta, schiaccia e solleva il pulsantino rosso un paio di volte. Poi evidentemente, siccome l'ho abilitato quando lo sto usando, evidentemente lo si dà, perché non te lo segna. Invece quello che c'è prima del tasto rosso, in quell'angolo lì, quello è 50-75 ohm di impedenza, non c'è niente. Quello 50-75 non lo devo toccare. Ola. Però quando fischio il watt torna indietro. Ola. Comunque per le stazionali è il pulsante rosso, dopodiché quando schiacci c'è l'altro pulsante un pochettino più avanti, quello del watt. Hai capito? A 10, 100 e 1000, dovrebbe essere 3 se non mi ricordo male, ma non come mi sono dimenticato quello 0, come sono le prime 1000, capito? Cioè, un cazzo sto dicendo cazzate adesso. Comunque è 10, 100 e un chilo, dopodiché c'è rosso. Vabbè, io ho le prime 1000 qua di fronte, e il modello 500 adesso non me lo ricordo. Comunque sia, se la via è stazionale, se non te la segna, vabbè. Comunque il pulsante rosso mi ricordo che era. Hola. No, scaldato a portante muta sono 15 watt tondi. Già va bene. Però non riesco a regolare le stazionarie, a vedere, cavolo. C'è la manopola, c'è. Una volta che ci schiacci il pulsantino rosso, in pratica schiacci quello e dopodiché lo molli e c'hai le stazionarie che c'hai. Aspetta un attimo, forse ho capito, aspetta, allora adesso ce l'ho a zero il pomello, schiaccio il rosso, i watt me li dà, 15 watt è portante muta, però non mi stanno, non riesco a capire, io sto schiacciando SWR, quando affondo scala e poi come lo riazzero però. Ma, allora, guarda, se mi sono così, dimmi che rosmetro è. Quello di Popunio, ZG500. Allora, devi fare così, guarda, devi fare calle, calibrare, lo mandi a fondo scala e poi fai SVR e ti segna le stazionarie. Cal per calibrare e poi SVR. Ehi, ho capito, SVR ce l'ho, ma non c'ho il cal. Come non c'è il cal? Ma il tuo non funziona. Non lo trovo, cazzo, ci rumore da te due volte, ma metto che non ce l'hai. Ma ce l'ho, io l'ho prestato, io c'ho la... come si chiama? Ma, il Diamond. Ascolta, Antone, ma questi due fili che ci sono dietro da solo, questo negativo e positivo? Quelle sono le lampadine, per lui mi hanno la notte, eccetera, boh. Ho capito, eh. Ma il caldo è qua non c'è scritto calmi, c'è solo SWR, boh. Allora, quando c'hai il pulsante in alto, quello rosso, in pratica schiacci il portante e metti a fondo scala. Dopodiché il pulsante rosso lo schiacci e quello ti dà il secondo più R, capito? Aspetta. E non si muove nulla, non torna indietro. Perché devo tornare indietro, scusa, se tu quello lì lo mandi avanti, la manopola la mandi avanti, la mandi fino a fondo scala. Quindi se deve per forza tornare indietro. Nulla, allora. Chi è che mi chiama? Sto dicendo cazzate, sai. Oh, ciao bello be, ciao fra. Ciao Antonetti, ho sentito il fuggita. Dai, sto chiudendo perché sto uscendo, va. Chi è? Si può avere un controllo? Fra, lo senti a Saverio. A chi? A Saverio, lo senti. Mando avanti a vedere. Buonasera, ben ascoltato. Basso, Radio 1. Segnale, c'è un scigliante da 4 al 5. Sono del radio bassino. Come audio bassino? Vabbè, sto scendo di microfono originale. Che zona ti trovi? Sorso. Ah, ok, sorso. E anche tu sei debole come segnale, arrivi diciamo c'è radio 3 e Santiago è 2 e mezzo, non di più. Vabbè, sto usando una radio che è fredda, deve scaldare ancora, niente di più. Ok, dai, ciao Antonio, ciao Saverio, ci sentiamo, riprendi Antonio. Allora, il segnale va da 2 e mezzo a 3, ok? Comunque si sente che un K deve scaldare, però quale arrivi così? Io sto scendo con 10 watt e il microfono è originale. E sto provando un'antenna autocostruita, dai, tutto qua. Buonasera, ben ascoltato. Sì, ho capito. Ciao a tutti. È inconfondibile, non sta con i due microfoni. Si riconosce da, non da 15 km, ma anche da 50 km. Andare, riprendi a te. C'ho picchi relativi io qua, Secondo me con l'antenna non stai radiando comunque, perché se no è qualche cosa a me, e se dove mi hai detto tu dovete arrivare a sorso più forte di segnale, è strano. Non ho capito, dottore, cosa mi hai detto? E con l'antenna secondo me non stai radiando bene, arrivare molto più forte, la verità. Hai capito? Cioè, dalla parte del sorso dovresti arrivare molto più forte, perché ce l'hai aperta tu, io invece sono chiuso. Quasi segnale 9, sì. Ma dovrei arrivare molto più alto, e c'è qualcosa che non mi quadra. Ma poi anche questo qua nello strumento, non so cosa dire, ma non penso che sia difficile, vabbè, qua cal non ce l'ha, però una volta che io schiaccio, mando a fondo scala, schiaccio il SW, R deve darmi le stazionarie, qua le sta segnando alte, Adesso sta piovendo, aspetta un attimo, Salve. Io mi ce l'ho qua, nel baracchino, SVR e cal, e tacchino qua, così è SVR. Così, calibrazione, aspetta, un attimino, secondi e mollo. Allora, portante muta mi sta segnando 1 e 2, di stazionale, se vado a modulare, 1 e 4 salgono. Ho capito, Allora vi cerco un attimo a casa, che ne proviamo con lo strumento tuo. Io c'ho il baracchino, sa, però non è uno strumento. Nel baracchino ce l'hai. Ma secondo me non è affidabile. Se no mi segna così, quasi 1 e 5, da. Gabba. Nulla. Sì, non si muove, non cambia niente quando io schiaccio il rosso. Ma scusa, non potevi provare prima di andare via? Lo dovevi provare da lui, no? Come? Ma dovevi provare da lui prima di andare via? Di pomponio è quello. Ehi, ma non sono salito a casa Antonio, eravamo giù, capito, che dovevo avere in fretta, dovevo andare a prendere la Naomi a scuola. Ah, ehi, salve, casino, guarda. Casino, io ho preso il diamond a 4,90 euro, ma è bellino, fa la 27 e poi fa VHF, se non sbaglio. Quando l'ho attaccato senza toccare nessun pomello mi dava 1,4 in stazionario. Scusa, anche di più mi sta segnando, secondo me non è giusto. Secondo me tu hai fatto un piede male, perché non è possibile la calza, magari, o tutti e due, non lo so, perché se non è possibile, cioè il segnale non mi sta arrivando bene. Cazzo, Giovanna con quell'antenna lì, da Terranzino, mi chiamo San Luca, Luca, come la senti Giovanna tu la... L'antenna messa nel terrazzino in orizzontale, lungo il perimetro del terrazzino. E io la sentivo un po' bassa, Giovanna, un po' bassina. Ascolta, io ho un schiavo di full. Ma quando scassi? Ma prova a attenuarmi, a vedere se si riduce a un bel o se è sempre buono il segnale attenuato. Okay. E poi i picchi, guarda se sono positivi o negativi. Hola, hola, hola. Guardate che sono positivi, attenuato sei zero. Però mi continui a sentirmi nel radio. Io ho un RFG in chiuso e mi sento. A chi senti? Se chiudi il RFG non ti intendi piano in su. No, proprio non arriva. Va. Prova a parlare con un po'. Sì, vabbè, io non arrivo perché c'ho l'FM500S, c'ho un lavandino come macchina adesso. Quindi l'altro ce l'ho giù, hai capito? Mi è rimasto solo il 3009, mi è rimasto qua, l'FM500S. Il VU, pure adesso non è rimasto niente. Allora, quel pompone arriva, ma è basso, basso, come se fosse, da qualche parte, lontano, lontano, bassissimo. Guarda, all'RFG chiuso. Ho capito. Mi pare adesso mi piace qua la lampada, nel mobiletto, l'ho costruito. Mi metto a operare, almeno a attaccarli, adattarli il microfono al tavolo. E ho operato, lo fai salve. Se tu che hai marcia a parte, tu che stanno girando. La radio va bene adesso, giù mi stava arrivando il sacro. Dai, va bene un po', salve. E mi trovo una giornata buona. Cioè, tu la fai, salve, ti fai un sacrificio, fai. Lo so, costicchia, ti prendo la terra di Claudio. 8 db di guadagno mi sa, 7 db di guadagno, adesso non mi ricordo. No, erano 7 ottavi, scusa. Ah, cazzo, una bombetta con l'antenna, costa quasi 200 euro. È super leggera, se la metti in chi mi guai. Ma la mia ce l'ho già in elaborazione, la mia è dal dormitore, vai tranquillo, mi sono così la busta, questa antenna nuova mi può fare di radio 4, ma le antenne, me ne compro un'altra. Vabbè, ma se vedi che non va, salve, adesso vediamo un po', la mia la butterò giù il prossimo anno, verso marzo aprile sicuro la butto giù, e vedo un po' cosa ha, perché queste stazionarie non mi piacciono. Magari mi cambio il capo anche, glielo metto quello sottile, non mi interessa, 58 quello, non quello 58 sottile, l'altra parte più grosso. Mi metto quello, ma la pulisco bene, vediamo un po', se scendo se stazionare, se no me la piglio io, se l'antenna arriva a Claudio, mi sarà piazza di sopra, la leggera, senza radiali. Io la mia l'ho portata dal tornitore e mi sta facendo i lavori che devo fare. E dopo te la faccio vedere io a vedere se c'è da qua al terrazzo con l'antenna, forse è Maragana. Poi c'ho queste due Game Master, c'ho l'antennino della macchina, avevo piazza un dipolo e una direttiva. E voglio, cioè, cosa che antenne mi devo comprare? Salve, nel caso che non va a buon fine, fai la fare un lavoro, non costa niente, vedi un po'. peccato che questo coglione è stata tagliata, un peccato qua. C'è Gesù Maria. E allora non basta tu che l'antenna mia tagliavo la mola, che non basta la finire. Ma infatti io ce l'ho dal tornitore, Luca. Sono andato dal tornitore, l'ho portata, me la sta sistemando originale, deve fare i lavori che ci sono da fare. La saldatura d'alluminio e tutto quello che gli ho elencato io. Mi ha detto dammi un po' di tempo perché sono incasinato il lavoro. Fra una settimana vado e me la ritiro. Ce l'ho dal tornitore. Ehi, ma ho capito, siccome il caso mi ha detto che è stata tagliata anche, dove c'è la resina, giusto, mi confermi? Sbagliatissimo, ma nel caso gli ho mandato le foto ma non ha capito, non è tagliata dove ce l'ha, è che è un taglio, hanno allargato i tagli dove ci va la fascetta, è un pezzo, una di quelle alette, si sta troncando, capito? Qual è il problema? Però pezzi non ne mancano, pezzi dell'antenna non ne manca niente, nulla. Sì, ma quando è stata smontata non è stata tagliata l'antenna, è l'originale, 7 metri. Certamente che sì, si conferma, l'antenna è lunga, 7,04 m. Io vi ho mandato tanto di foto dove ci sono i tagli sono fatti in verticale per allargare i punti dove non riuscivano a sganciarla. Non hanno tagliato un pezzo di antenna, capito? Allora va bene, io ce la recuperi. E poi so che dice che è stata tagliata un pezzo di resina, la parte di giù, dove c'è il mozzo, diciamo. Assolutamente no, la resina il pezzo è intero. Sì, logicamente come sono entrati con la moneta hanno fatto un segno in verticale dentro la resina, ma io la resina di lì ci metto l'altra resina e il taglietto della mola non si vede più, capito? Ah ecco, è quello della recupera. Poi per quanto riguarda i radiali te li fai in alluminio, alluminio pieno, salve. Ascolta una cosa, hai visto i tagli che ci sono sotto per bloccare i radiali? Lì hai recuperato? Tutto a posto, l'ho tutta sistemata, ci sono stato 2 mattinate a presso con l'antenna, i radiali sono già a posto, li ho comprati. E tu mi hai detto radiali pieni, Claudio mi ha detto radiali vuoti, io li ho comprati vuoti. Perché sono vuoti, cazzo, non vogliono pieni, i radiali della Mantova originale sono vuoti. Ciao. Comprati vuoti Claudio, buonasera, li ho presi vuoti e non vorrei sbagliare, ma quei quelli che io ho comprato vuoti sono proprio radiali di Mantova, perché manca a fare la posta, sono andato a guardare in un cuzzurro di la Mercedes, ce n'erano solo 5, c'erano 5 radiali, non ce n'erano altri, ed sono tutti la stessa lunghezza, che adesso non mi ricordo di preciso, 1,36 m o roba del genere, per il momento li ho lasciati così, poi vedremo a che misura farli. Vuoti, vogliono vuoti. Non pieni, vogliono vuoti. Sono nati così e vogliono vuoti. Ok, non pieni. Focla, come mai li ha messi pieni? Infatti è durato da Nadare a Santo Stefano. Non li ha preoccupati pieni, poi non lo so. Sono stati tagliati a misura, quindi abbiamo fatto il buco per passare parte in parte, che purtroppo dove tu metti il dadino per bloccarlo, quello lì era già rotto, c'era il dadino dentro spaccato. E adesso quello è piantone di Gianni a vedere com'è. Tutto riboccolato, al tornio, tutto rifatto, il mozzo tutto nuovo e i radiali scivolano dentro con la vite sua originale da sotto, autofilettante, non radiali passanti. Per forza avete messo i radiali passanti, se cazzo buono è un radiale che pesa 1 kg, i radiali vogliono vuoti, tutte le antenne hanno i radiali vuoti perché devono flettere, non devono essere rigidi. E vabbè, ma aspetta, è la durata. La durata di cosa? Io direi della Mantova. A me la Mantova Turbo, Luca, con i radiali vuoti, originale, mi è durata 8 anni, ok? Quando poi io ho lasciato il nono piano di carbonati e sono andato a abitare in via Pascoli per 3 anni, ok, e ho lasciato la Mantova lì, si è completamente razzigata. Quando sono rientrato a carbonati ho tolto la Mantova Turbo e ho messo la Mantova 1, basta, però ha durato 8 anni. Ma perché? Perché la Mantova Turbo è un'antenna del cazzo che è stata progettata male, perché il piano gatto che mantiene i radiali, chissà, si brazzigheggia, si oscilla, si marcisce, e i radiali, siccome sono innestati in una maniera particolare, si staccano da soli. Mentre se tu monti, te li monto io, te li piazzo io, i radiali in alluminio, nella mantova 1, nella mantova 5, ti durano un'eternità. Allora, la mantova 5, se per detto c'era la bellezza di 11 anni, e ne è sceso solo un radiale perché c'era una cornacchia che imperterrita andava sempre di lì e ne ha lampato. Gli altri 4 erano intatti. Tutti abbiamo il problema di questo cazzo di cornacchi, io lo sento, a me le cornacchie non mi hanno mai fasciato nuda, capito? Non mi hanno mai rotto niente. Se poi ti ho detto vuoi fare un lavoro fatto bene, che non ha nessun problema, anziché mettere radiali in alluminio da 1,60 m, ti ho detto, li metti a 1 m, non le fa assolutamente niente. I radiali servono per il piano di massa. Quando l'antenna irradia è all'altezza sua, il piano di massa è sufficiente dal piano di terra, anche se il radiale è leggermente più corto, non li va di nulla. Ho capito Claudio. Comunque sì, io l'avevo anche fotografata e la cornacchia sopra il radiale, me l'avevo fatta notare Babola via Petrovica e effettivamente era così. Cazzo, andava sempre su quel radiale, piccandomi la lampada, e ne sono rimasti 4 e c'era 11 anni. Io, quando era carbonato, ho fatto un esperimento giusto per provare, senza nessun problema. Mi erano avanzati 4 radiali o 5 radiali della mantova turbo, ok? Li avevo ben puliti, erano nuovi nuovi, e li ho messi da parte. Ho detto, ma adesso tolgo i radiali in fibra alla mantova e metto quelli della mantova turbo, che l'innesto è uguale. Messi, a posto, non è mai successo niente, mai. L'antenna aveva la stessa resa, aveva lo stesso guadagno, non aveva stazionarie, irradiava bene, era perfetta. Ma giusto una prova, li ho tenuti 6-7 mesi, poi li ho tolti e ho rimesso quelli in fibra. Non soffri nulla, e sono più corti quelli della mantova turbo rispetto a quelli della mantova 1 radiali, ma non succede niente. Ho capito Claudio, infatti per quello io mi stavo mettendo il problema, perché ho detto questi radiali in fibra sono caricati dentro, ci vedo un avvolgimento del rame, c'è il rame attorcigliato, ho detto per quello che sono stati rimpiccioliti, sono da 1,60 perché sono caricati dentro, ho detto quindi non penso che posso mettere un radiale così a caso, però siccome lo dici tu, che sei una persona esperta, io sto ascoltando a te, ho comprato i radiali, li ho trovati da Marcito, sono tutti e 5 da 80, fini, entrano giusti nelle boccole, perfetto, però sono più corti degli originali, adesso non mi ricordo se sono 1,30 o 1,35, poi vedremo, magari li tagliamo, tu mi dici no, fagli a 80 o li lascio direttamente così a 1,35, questi sono così, sono di qualche antenna per forza, non è roba di altro, quella è roba di antenna. Anche a 1,30 li puoi fare, ma non sono i radiali caricati, quelli della mantova in fibra, hanno un isolatore interno per far sì, siccome l'antenna è cortocircuitata, anche per il piano di massa, ma non è una carica quella. Cazzo, un filo di ramo dentro è una carica, cosa c'è? Non serve a nulla, capito? L'antenna caricata è quando lavora in verticale, non così con i radiali in orizzontale, sai? Non servono a niente, quei radiali tu, se tu non metti i radiali nella mantova, non succede assolutamente niente, l'antenna irradia lo stesso, non avrai più piano di massa, quindi ti dà la scossa, ti crea altri problemi, ma l'antenna esce lo stesso. Ho capito, andare. Sì, no, ragazzi, sono a posto in tutto, adesso ho portato il primo elemento per questi tagli verticali che c'è nel primo tubo. Attenzione, tu poco fa, l'altro giorno siamo fraintesi, tu hai pensato che il taglio l'avessero fatto netto in orizzontale, no, negativo. Hanno fatto dei tagli verticali per allargare in modo di poterlo levare, ma l'hanno danneggiato forte, adesso l'ho portato in un centro dove fanno da un tornitore a fianco a scandellare. E mi sta facendo il lavoro che gli ho detto io, rispettando la stessa misura e tutto quanto, e lui torna come prima. Da Bondi che l'hai portata? Certo, lui si conferma. Grande amico fraterno Stefano, io ci lavoravo con loro, sono bravissimi. Sì, ma non ti preoccupare, non succede. Se è il taglio, tu non hai rovinato la resina, stai attento quando ripristini la resina. Deve essere lo stesso diametro, non aumentare il diametro e non riempire all'interno il diametro della resina, perché questo quello è l'isolatore dell'antenna, è il cuore dell'antenna. Se quello lo fai diverso, l'antenna non è più quella di prima. Quindi stai attento a rispettare la grossezza, la misura, riempi dove devi riempire, poi con la tela smeriglio leviga bene in modo che il tubo scivoli dentro, non va a entrare a forza, capito? Perché lì c'è l'anello che isola il connettore del PL. Quindi stai attento a quello e basta, poi te l'ho già spiegato, i radiali li puoi fare anche da un metro e venti, un metro e trenta, non ti ne affutti nulla se non so da un metro e sessanta, non succede assolutamente niente, e metti l'alluminio vuoto, vuoto in modo che il piano di massa sia ben isolato, ok, non pieno, ok? Ok Claudio, ok, sì, no, nella resina c'è solo due tagliettini proprio in verticale di mola che hanno fatto il buco, però io ho dello stucco a resina che uso per le chiglie, per le questioni di barche e di gommoni, e quella stucco a resina io riempio quei forellini ma dentro non gliene faccio cadere, e poi quello che in più glielo levico e niente, il palo, il primo palo deve stare liscio liscio e bloccarsi prima del, di quel come si chiama, quel rivetto che c'è di lì, lo so, ce lo recupero, dai, magari non sarà come quando era nuova, però l'importante è che mi radi bene, che le stazioni siano fatte, sto facendo un tentativo, poi vediamo come va a finire. E quello non è il palo, il primo elemento parte dal piantone, quindi quello che tu stai innestando, il più grosso di tutti che va innestato della resina, quello è il primo isolatore del piantone, ok, da lì poi, da lì parte l'antenna, da lì parte l'antenna, quello è tutto piantone, dalla resina al primo elemento di alluminio, quello è il piantone, quello è tutto l'isolatore, poi da lì parte l'antenna. Sì, ok, vabbè, io non è che, però per me, io vedo quella è la base dell'antenna, dove c'è la resina con il radiali e l'attacco del PL, io pensavo che l'antenna partisse dal primo elemento, comunque, quello il pezzo che è danneggiato è il primo elemento di alluminio, quello grosso, hanno allargato i tagli, li hanno fatti più grandi e facendo forza l'hanno lesionato l'alluminio. Adesso lui, siamo trovati un accordo come rifarlo, ha trovato un pezzo di tubo uguale, con le stesse caratteristiche, stesso spessore, interno che esterno e che di materiale, lui taglia quei primi 15 cm, lo risalda uguale e mi rifà le spaccature originali e lo rinnesto dentro e vediamo che devo andare di buona. Ma no, cioè la puoi che stai pur certo che ti invasi il buio, piantone nuovo, tranquillo, non me le bocco, non me le ha fatte Stefano, le ha fatte lui. Capito? Me li ha fatti lui, ma davanti me li ha fatti, me l'ho detto stai così, dammi qua, vieni un attimo tu, siamo là tutto, al turno fammi 5 boccolette di questa misura e poi con la pressa glieli metti dentro, 2 minuti, tu, boccolati, abbiamo provato il radiale, scivola dentro benissimo. E poi col trapanino mi ha già preparato i forellini con le vite autofilettanti e il piantone è nuovo come è uscito dalla casa, nuovo, a chi pulisce da rampazzi, capito? Perché è stato forato di parte in parte, quindi è stato indebolito l'alluminio, invece lui me li ha tutto risaldato in alluminio, mi ha rifatto tutto il piano nuovo in alluminio, riboccolato tutto e fatti fuori da sotto, capito? Quindi è diventato, è passato al turno. Va bene, Salve, cosa vuoi ti dica? Adesso provola e poi vedi un po'. E niente, dai, io vi saluto, sono di passaggio qua, che me ne sto andando un attimino a riposarmi, che stamattina stavo lavorando, quindi sono visto il comuscio. Ci sentiamo stasera, ciao ragazzi. Andare Claudio, andare. Io adesso sto rovaggiando questa Game Master, quella che avevo costruito io 2 anni fa, però non riesco a capire, qua mi ha prestato lo strumento Antonello, Poponio, ma non riesco a farlo andare. Allora, adesso io ho il coso 7 a fondo scala, se schiaccio il rosso dovrebbe tornare indietro dove c'è scritto SWR, nulla, non si muove nulla qua. Da te come sta arrivando Claudio? I picchi sono negativi, positivi, come mi senti? Come mi senti a casa tua? Sono picchi negativi, positivi, la radio è buona, è cupa, è satura, com'è? No, buona, sei 9 con picchi positivi a 9,5. E non riesco a far andare questo strumento che mi ha prestato Antonello, c'ho questo ZG modello 500, Come devo farlo agire per controllare il ROS? Ah, boh, io strumenti ZG non è che ne conosca molti, poi no, quello non lo ricordo proprio. Non so, chiedi a Luca a vedere se lui lo conosce. Va bene, dai, ci aggiorniamo più tardi, ragazzi. Sto andando a sdraiarmi un attimino, un'oretta. Poi ci aggiorniamo stasera. Ciao, vai Lucarie. No, no, me lo sta dicendo anche a me, ma non lo conosco. Non lo conosco. Non lo so. Ciao, ca, stasera, ciao. Che io tra un po', vabbè, ho appuntamento alle 4:30, devo andare a prendere un telefono. E niente, dai, ci sentiamo più tardi. Ciao. Aspetta un attimo, Lucarie, che ti faccio arrivare alle 9:30. Sì, a casa la tua madre tu adesso. Ehi, ehi, ehi. Fai, ma no, sono ancora qua, tanto, dai, tanto devo uscire alle 4:30 da casa. Aspetta un attimino, aspetta, perché questo Smither è un cane morto, è un cane morto. Cioè, pensa che Claudio sta arrivando a Santiago 5, tu sei Santiago C, e a lui più a due. Guarda un po', dai. Guarda un po'. Ehi, dammi un minuto, aspetta un attimo, Claudio, se puoi rimanere un attimo in ascolto, così vediamo un attimino, ma penso che deve arrivare almeno 9:10, Claudio. Buono, buono, buono. E mi sa che doveva fracco, è andata... È andata a riposare. Ciu, che ciu, che Claudio. Allora, com'era? Smither, Smither ci deve essere scritto, aspetta. Com'è il trimmer dello Smither? Antonetto. Va bene, sì. Già sono un giorno. C'è scritto SRF. F-M. Bravo. Guarda se è quello in trasmissione. Che ti vengo dalla trasmissione prima. Tirala appena. Ci muovono un quarto, mi ha detto. 5:15, va bene, anche per le 5. AM Power, quelli sono i watt, aspetta un attimo. Comunque anche questo qua quando mi è arrivato, cioè lo Smither è avaro. Avaro proprio, taratto. Poi c'è l'altro è a posto. Quello che c'è giù da Marina. Sicuramente anche lì io da Valenza dovrei arrivare almeno 9:20, 9:25. Perché arrivo a Gianni 9:30, non più rumore. Tu pensi che Gianni è più lontano? Lo so, ma a volte capitano i corelli. Io ci avete da regolarmi, mi ricordo, non mi ricordo adesso qual era. Ho dato il baracchino a dove c'era scritto in quello stampato dove c'era scritto tutto. E l'ho dato all'amico, guarda, non me la metto più. Quello è per non conservarmi, non farmi le fotografie, fanculo a me. A volte capita magari un apparecchio regolare, non so come diavolo fa, va bene, a occhiometro. Ci arrivo, il discorso è quello, ma non mi ricordo quello delle FM500S, e non mi ricordo mai quello il potenziamento delle FM del 2009. Che non bel tempo, vabbè, quello va, senz'altro va cambiato perché non funziona. Cioè, 2009 che c'ha quei problemi. In FM no. A volte agisce, a volte non agisce. Se cambio quel stream, devo avere pazienza, uno di questi giorni me la faccio. Tutto, me la do tutto per fare altre cose, quindi a volte te lo dimentichi pure. Ma non sei più che non fai baracchino in tutti i giorni, un casino, cazzo. E vabbè, Giovanna arrivava a basso lo stesso. Arrivava a basso. Quindi dopo domani sono nelle zone tue, mi accadò felice, dopo un po'. E passa a passare, già sono qua, Luca. Quando arrivi lì, domani? No, cosa posso passare? C'ho il dentista alle 11. Quando era il dentista, un po'. Guarda, dentista, poi ti faccio venire il mal di denti a mezz'ora e mezzo. No, non posso bere, sono sotto antibiotico. Cazzo, mio compleanno, quindi o bevi col naso, ti metto la cannuccia. Col culo bevo. Domani è 9 novembre, no come, vabbè. In un telefono c'è scritto il 9, l'altro c'è scritto l'8. Ma se non erro, Claudio mi fa il 10, novembre, boh, se non mi ricordo. No, mi sembra che era Andrea Maricomi, faceva l'11 novembre, faceva. Tu già dico per me. Ma no, credo di fare il 20 novembre. Eia, no, compo, lo posso bere per una settimana. Inizia da domani l'antibiotico, lo finisco domenica. Figurati, sto bevendo, cazzo, acqua al limone, cazzo, vadile. Ma stai bevendo acqua al limone? Sì, la birra vasile, acqua e limone. Questa ti sbronza, guarda, quando devi fare le fettine ti sbronza, cazzo. Ci metti un po' di sale, un po' di peperone e sei a posto. E fai il condimento. La cucina. Oh, allora quello lì è quello dello smitter in trasmissione. E quello in ricezione qual è? Ascolta, ce n'è. Quello lì è visto che c'è quella stecca con tre, come si posso dire, ci sono tre puntali dove c'è una stecca orizzontale, ti ricordi quella dello smetto, se tu stacchi quella non alimenti finale in pratica, appena la stessa posizione, appena più avanti c'è un trimmer, quello è quello che stai dicendo tu. Mi limi. Allora, VR1 SM, VR2 SQ, Squerch e Smitter. Fermo un attimo, fa passaggio, Luca. Smitter, quello lì. Guarda un po', uno, due, tre, prova. Cazzo, da sempre buco veloce, vai, prova. 1, 2, 3, 30, 40, 50, prova un po'. Attento, se avvero, la rimancia lunga, senti di cuore, questa piccola chiamata che ti chiama, gabba. Ecco, adesso sì, quasi a piombo. Prova di nuovo. Guarda, sono a piombo o a livello. Guarda un po', 1, 2, 3, 30, 40, 50. Salvino, rimarci a lungo, senti qua. Prova tu, Antone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Non è lo così forte, non può arrivare. Fa passaggio, Antone. Prova un po'. Ciucucciù. Prova tu, Luke. Attenzione, San Vito, una rimarcia lunga, ti senti qua questa piccola chiamata che ti chiama, cap! Adesso ci siamo, adesso va bene che va bene. Allora, quanto ti arrivo di segnale, Antone? A me mi arrivi 9, la verità. Però non ci fare caso, che come è regolato quando c'è l'antenna esterna doppio. Perché con quell'antenna piccolina lì, poi devi di nuovo ritoccarlo, quindi a un certo punto. Accontentati del segnale che c'hai, perché ogni macchina cambia, Guarda ora quanto ti arrivo di segnale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Sì, calata a 7, cosa hai toccato? Adesso ho chiuso il watt, hola. Ah, ecco, allora va bene. Aspetta un attimo, Ma forse hai tirato troppo, quanti arrivano un'alternata, Sanvi? Ce li ho chiusi, sono 7 watt, ora li ho rialzati, guarda un po', cambio passo. Hola! Ah, è senza watt, ho capito. Era la frutta ero. Aspetta che li posso alzare ancora, adesso l'ho rimesso come erano. Comunque qua sei su più del più 30. Hola, guarda un po', Antone. Che cosa hai toccato? Hai fatto... Lo so io, non è isolato questo cacciavite. Guarda un po', Antone, com'è il segnale? Prova. Adesso vai bene. Ehi, ma quanto è? Sollevato di più, è salito più di 9 o è sempre stabile? Sempre 9. Aspetta adesso che sento se è scappato qualcosa, una cosa, ti faccio vedere come salgo appena. Luca, prova a attenuarmi, a vedere se ti dà appena il segnale. Prova, vai. Allora, voi sono a massima potenza, cambio passo, 1, 2, 3, prova. Prima cessato, segnale 1 attenuato. E così è come erano prima. Hola, la cipolla. E segnale 1 riattenuato, prendi un bel saturo. Ma adesso non è più saturo. No, negativo. Gaba, andava, dai. lasciamo tutto così. Comunque tu mi arrivi 9:30, fai un passaggio. Ehi, ah, tu oggi non lavori, è vero. Come? Ho detto che tu oggi non lavori, ecco perché sei ancora qua. Ah, bisogna di Ninji. Stasera la rimanete in radio. Come? Non mi senti, salve. Ehi, ma hai fatto passeggio troppo corto, c'ho la colonnina girata dall'altra parte. Ho detto, stasera te ne stai in radio, così fai un po' di prova dappertutto. Entra a Porto Torres, entra, vabbè, farò Porto Quadrato, stasera alle 6:30. Ma io sono a casa, oggi rimango qua. Caparrogiro positivo, andà bene bene, adesso provo, qua c'ho l'attacca a 6 punte, mi sa tanto che qua facciamo una bella modifica, mettiamo 4 spinotto a 4 e metto il coso, l'MB più 5, microfono del tavolato. Quello di tavola? E allora? O di mambo? Quello di tavola a cai. Andiamo, catta. Non mi piace come io faccio acciutta. Quella faccia acciutta, ragazzi, per carità, che elemento, oh via. Io mi ricordo tanti, vabbè, parlo tanti anni fa, un bel di anni fa, ero ragazzino, quando mi ha avuto una volta di meno, mi ha avuto, perché avevo detto basta acciutta lì all'oratorio, che non voleva qui, se comunque a fuga se fosse l'anestesia. Oh via. Andà bene. Antonello, allora, ricordami che io adesso oramai sono fuori dal tunnel, fuori dal giro. E nero, rosso, arancione, dimmi cosa corrisponde a ogni filo di questo microfono. Il rosso cos'è? La portante? E cazzo, non me la vedo più. Non me la ricordo più, no. Il rosso quello, il rosso quell'altro, non me la ricordo più. Generali, aspetta un attimo che cambio baracchino e attacco il 3009. Ehi, andà bene, allora io qua ho un rosso che mi arriva direttamente dal Mikey Gain, quindi penso che sia la portante. Poi c'è due neri, un arancione e un bianco. Salve, che sono casino, grazie, perché c'hai il microfono a sì. Però tu, allora, fa una cosa, ascolta a me, tu apri lo spinotto del microfono, guarda quanti fili sono agganciati. Ah, del microfono questo qua, il microfono che ho adesso. Adesso vediamo, là. Aspetta un attimo, l'allento così vediamo quanti fili ci sono. Ma salve, è un gioco, se hai quattro fili agganciati sullo spinotto a 6, non fai altro che sganciando quelli, tanto più o meno sono uguali, tanto tu ne hai 4, non ne più 5. Se lì sono 4, fai sganciando e saldando, sganciando e saldando e vedrai che poi risolvi. Poi se ne hai 6, ti devi cercare prima la portante e poi la ricezione, mi sa che quello riceve anche senza microfono, giusto? No, questo qua, se attacchi il microfono non c'è il ponticello e quindi non ne senti il radio, modulazione. Aspetta che per non caccia vicino piccolino a croce, avanti, pomponiera. Adesso ho cambiato apparecchio, sono col 3009. Ehi, l'altro qua è 5000 dall'altro, l'altro è lo 5 cupo. Ehi, ma lui è sceso da 9 a 5 addirittura, 5-6. Quanto ti arrivo io pompo? 10 watt mi sta la nostra, 8 watt, 10 watt, quanto ti arrivo io? Guarda un po'. Prova. Guarda un po', 1, 2, 3, prova, vai. 9,20. Tu sei quasi sul più, da più 30. Vedi la differenza che c'è. È così purtroppo. Adesso metto fuori l'attacco del coso, ragazzi. Sanno che ci li ho messi con i cavetti, ragazzi. C'è un casino in questo laboratorio, qui a casa non mi trovo più un accidente, ragazzi. Né cavetti di 58, né energia 213. La carità. E come Mario? Come Mario. Perché sto sempre spostando da una parte all'altra, c'ho roba sopra, c'ho un impianto stereo da sistemare, no? L'alimentatore mio, poi eccetera eccetera, sto pensando adesso a fare altre cose, capito? Devo stare presso a Simona, non è che devo stare presso a Baracchino, quindi è che gli altri può rientrare, quindi a un certo punto ogni tanto prendo e sposto le cose, ma come in ammetto. Ecco, come Dugasino. Bello Gazzino, e ci va a cuccia, vai idea. Allora, adesso ho fatto già inquadrando. Questa è la massa, qui c'è il giallo, che va a collegare con l'arancione. Poi c'ho il rosso, ho fatto il rosso. Ma cioè, lo sai cos'è? La parte interna di questo attacco a 6 punte c'ha un circuitino stampato, capito? C'ha una schedina. Non va direttamente a attaccare sui fili, capito? Oh, tu devi capire, lo spinotto del microfono. Ok, sono uno, due, aspetta che ricordo, scusa. Vai, forse magari con la schedina lì, forse sicuramente una schedina che ha una piccola alimentazione per far funzionare il microfono, sicuramente, capito? Beh, quello che gli ho detto io, infatti. Lì senz'altro c'è il coso, cioè, l'alimentazione non è forse. Quindi figurati. Ehi ragazzi, per carità. Mi sa che c'ho un paziente proprio a farmi una doccia, là. Che poi appuntamento. Si sta bene fuori. C'è più belli, si sta bene. Oh Luca, ce ne sono solo 4 di cavi. C'ha 6 spinotti, 6 punte, ma ce ne sono solo 4. Ecco, dimmi i colori. C'è la massa, il giallo, il nero e il rosso. Una cazzata, allora Salvi, aiuta. Se vuoi ti aiuto io, me. Ah, però il mio ti dico le posizioni. Sono le colori a 6. No, quelle a 6. Beh, vabbè, guarda un po'. Adesso tu sai, fai una cosa. Apriti lo spinotto delle medie più 5. Guarda i colori. Aspetta, adesso c'ho un altro barattino, piccolino. Poi non mi ricordo se stavo cercando la mamma, mi ho trovato 2 barattini. C'ho un portatile color crema degli anni 80 e poi un Midland, aspetta che lo prendo. E c'ha l'attacco a 6, al limite uso quello spinotto lì, nuovo a 6, per farmi il microfono a tavolo, ve lo faccio ora. Ah, bravo, ho visto. Io sono a 6, non ne ho, a 4 ne ho qualcuno, ma a 6 no. Guardati i colori del microfono, almeno più 5. Ma i colori sono quelli, dai. Rosso, calza, giallo e nero. Aspetta un attimino, dai. Sono in ascolto, dai. Ci vado a prendere questo apparecchio che c'ha. Adesso prima provo ad accenderlo, questo apparecchio si accende. Che non me lo ricordo se è un baracchino bruciato, cosa è. Aspetta che vado a prenderlo che ce l'ho già buttato. Fai, vai, su ginocchio. Anzi, mi sembra la farmi la doccia veloce, dai. Così mi cambio, questa mattina stavo comprando la camera, ragazzi, c'era un po' di polvere sopra i mobili e mi ha girato tutta a terra con l'aspirapolvere, ha asciugato bene, mi sono pulito tutta la camera. Va bene, arrivo subito. Fai col comodo. Cazzo, la polvere mi ha detto, poi a me mi va a zimare il biuvaro. Adesso ho l'armadio da pulirmi, forse lo faccio domani. Purtroppo la polvere si accumula, cazzo, un giamento di male. Poi vabbè, tengo sempre la finestra aperta, da me entra di più. Anche io c'ho la finestra aperta qua, ma ogni mese fanno casino qua, capito? O si mettono a fare lavori in strada, o tagliano l'erba, e quindi è diventato un troiaio, è diventato. Via. Giù. Ah, ecco dove la tocca vetto. Giù a casa di Giovanna con le lineare, cazzo. Ecco perché non lo trovavo. Oh, Antonello? Dimmi. Io ho trovato il microfono a tavolo, ma ho trovato questo baracchino piccolino. Aspetta, lo cerco. Questo baracchino piccolino della Midila che c'ha il microfono a 6 punte. Così prendo quell'attacco lì e lo uso di qua. Ma ricordati di metterti anche l'antenna PMR, mi. Perché? Perché lo usiamo il PMR parecchie volte noi. Ehia, andate. Piano. Io cioè, non è che c'è tutto questo tempo a tenere radio, però a voglio. Quando voglio posso entrare, entro. Se c'è qualcuno, se no ciccia. Certo, per spendere... Quanto viene? Mi sembra vengono 20 euro l'uno, vengono 2 Bofeng. Poi te li fai programmare da qualcuno che abbia il computer, se no te li programmi tu. Ti prendi il dischetto, il cavetto, sei a posto. Ti fai 8 canali normali e il PMR e dati 8 in LPD. Vabbè, Antonio, sparito. Beh, spariti, sì. Spariti. Sì. chi è, avanti. Buonasera, oggi piove, succhiato macchia, sono, eh. Avanti, io ti ascolto, avanti, chi è, sul binario 10. Mi senti? È positivo, qua ti ascolto, forte e chiaro. Ma da dove sei, da sotto? No, relativo, città di Sassari qua, Monte Rosello. Chi è, avanti? Sceriffo sono, hai capito? Chi sei? Sceriffo, mi senti? Salutoni, sceriffo, ben ascoltato. Dove ti trovi? In movimento sono, hai capito? Sono in movimento, ho visto parecchia gente già andando alle macchine. Sì, in movimento, coordinate?